Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Le elezioni americane viste da fuori. Oggi, come le vede Teheran? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran. President Trump and his team are not only bad at the strategy of approaching Iran, they're bad at just the day-to-day tactics of diplomacy. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. La squadra è sempre quella: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Così come è sempre lo stesso il numero da digitare per porre domande e commentare il tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo. 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Siamo anche sui social, cercateci Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Come avete sentito dai titoli, oggi inauguriamo una serie di puntate speciali, tutte dedicate alle elezioni americane. Le stiamo seguendo e le continueremo a seguire, evidentemente, fino alla lunga notte del 3 novembre. Però a volte bisogna togliersi gli occhiali per meglio osservare il fenomeno. Intendiamo dire che dobbiamo toglierci gli occhiali di italiani e occidentali per osservare anche tutte quelle sfumature che altrimenti ci resterebbero precluse. E quindi proveremo a indossare gli occhiali iraniani, cinesi, coreani, permettetemi questa metafora, per meglio capire quanto impatteranno le future decisioni della futura amministrazione americana su luoghi apparentemente lontani. Non abbiamo scelto a caso i luoghi nei quali viaggeremo: l'Iran, la Federazione Russa, la Corea del Nord, la Cina. Tutti paesi, in alcuni casi grandi potenze, con le quali gli Stati Uniti hanno un rapporto a volte, a dir poco, problematico. Questo è il tema di quest'oggi: gli iraniani come vedono le elezioni americane, e ne parliamo. 349-238-6666 per voi, per i vostri commenti e le vostre domande. Intanto andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta, manco a dirlo, negli Stati Uniti, perché è una notizia particolarmente inquietante, quella che arriva dal Michigan. Un gruppo di estremisti di destra voleva infatti assaltare il palazzo del governo dello Stato del Michigan e rapire la governatrice democratica Gretchen Whitmer. L'obiettivo finale era di scatenare una vera e propria guerra civile. Il piano è stato sventato, e leggo l'ANSA battuta da poco, dall'FBI, che ha arrestato 6 esponenti della galassia dell'estrema destra. Le accuse sono terrorismo, associazione a delinquere, tentata cospirazione. Le persone sotto accusa sono in tutto 13, molte di loro rischiano l'ergastolo. Sostanzialmente era stato messo in piedi un gruppo paramilitare a tutti gli effetti, con dotazioni di armamenti degni di nota, ma questo non deve stupire, siamo d'altra parte negli Stati Uniti. Il piano sarebbe dovuto scattare durante l'estate. La Whitmer proprio in estate era finita agli altari della cronaca perché a un certo punto si vociferava di lei come possibile candidata alla vicepresidenza di Joe Biden, ed era finita anche nelle critiche di Donald Trump, soprattutto quando la stessa Whitmer aveva varato una serie di decreti particolarmente restrittivi per contrastare l'epidemia da Covid-19. A un certo punto si era sfiorata l'altissima tensione quando un gruppo di persone che non volevano accettare quelle restrizioni, peraltro armate fino ai denti, avevano circondato il palazzo del governatore. A quel punto il presidente Donald Trump scrisse quel tweet che fu additato da molti come ispiratore di violenza: liberate il Michigan. Gli agenti federali, fa sapere l'FBI, sono poi entrati in azione, evidentemente prima che si compisse questo piano. L'addestramento e il training e tutte le procedure paramilitari di questo gruppo erano state perfettamente congegnate e messe nero su bianco. C'erano delle esercitazioni vere e proprie, c'erano degli incontri clandestini che avvenivano nei seminterrati, insomma, al nascosto di tutti. Quello che inquieta di più è che alcuni gruppi alcuni elementi di questo gruppo paramilitare tenevano d'occhio la residenza estiva della governatrice da parecchio tempo. Poi è scattato il piano dell'FBI e il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, in realtà no, perché c'è stato immediatamente il riflesso politico, si è fatto sentire Joe Biden, ha detto Donald Trump deve sapere che le parole che usa contano. Ogni volta che la Casa Bianca e Donald Trump mi colpisce, aumenta nei miei confronti una retorica online violenta, così ha detto la governatrice, la diretta interessata, la Gretchen Whitmer. Il piano sventato, aggiunto, ha portato questa minaccia a un livello completamente nuovo. E c'è qualcuno al 349-238-6666 che ci chiede, si chiede ironicamente, Marco da Ferrara, sicuro che sia una notizia vera e non lo spoiler del film Attacco al Potere 4. Sembra proprio la trama di un film, peccato che invece sia una incredibile notizia di cronaca che ci arriva dagli Stati Uniti. Una buona notizia invece arriva dal Mali, andiamo nel Sahel, una fascia dell'Africa che seguiamo da parecchio tempo per la presenza di una ormai multicolore galassia di gruppi jihadisti. La buona notizia è che nella tarda serata di ieri il missionario Pierluigi Maccalli e l'italiano Nicola Chiacchio, entrambi rapiti da gruppi jihadisti 2 anni fa, sono stati liberati. Il primo era un veterano delle missioni cattoliche in Africa, operava dal 2007 in Niger, era stato rapito nella notte tra il 17 e il 18 settembre del 2018. Nicola Chiacchio invece era in viaggio nella regione saheliana quando era stato rapito da estremisti. Si suppone, si ritiene che i rapitori siano parte di un gruppo collegato ad Al Qaeda e noto nella zona come Jamaat al-Nusrat al-Islam. È importante sottolineare l'affiliazione ad Al Qaeda perché, come spesso abbiamo ripetuto, i gruppi jihadisti hanno normalmente due brand di riferimento: uno è lo Stato Islamico e l'altro è Al Qaeda. Recentemente Al Qaeda sta guadagnando posizioni nella poco piacevole, poco gradita classifica dei brand terroristici che hanno più appeal. Secondo quanto riportato da organi di stampa, il prezzo che è stato pagato è stato il rilascio di 200 militanti islamici. Quindi una buona notizia per i nostri connazionali. Rimane sempre molto tesa la situazione dei 18 marittimi in Libia. Continuiamo a tenere desta l'attenzione senza particolarmente, come dire, andare a cercare interviste clamorose o voci che arrivano da una parte piuttosto dall'altra. Lo sapete, la nostra linea è lasciar lavorare la Farnesina. L'abbiamo ripetuto anche molte volte nelle scorse puntate. Nel 99,9% dei casi questa linea di basso profilo è pagante. Quindi continuiamo, come dire, a osservare la situazione e vi daremo conto naturalmente se vi saranno sviluppi. Intanto velocemente in Kirghizistan, dove la situazione è sempre più caotica. Il presidente Jeenbekov ha detto di essere pronto a dimettersi per cercare di porre fine al potentissimo, incredibile caos post-elettorale che si è creato nel piccolo paese, 6 milioni di abitanti, ma l'abbiamo detto più volte, importantissimo crocevia nel Caucaso. Sempre stando nel Caucaso, Nagorno-Karabakh, continuano gli scontri. Peraltro stavo buttando l'occhio sia a France 24 che a CNN, che riportano immagini di distruzione incredibili di questo conflitto, ma nel frattempo la Russia è riuscita sostanzialmente a far sedere al tavolo armeni e azeri, e questa è una notizia particolarmente importante perché vi abbiamo dato conto nelle scorse puntatine sul luogo lontano come la diplomazia sembrava tacere. È iniziato invece da 20 minuti a Mosca il vertice trilaterale, partecipano ministri degli esteri di Russia, Armenia e Azerbaijan. Desta un leggero stupore vedere il fatto che, come spesso accade, vi sono convitati di pietra. In questo caso è assente la rappresentanza diplomatica del Nagorno-Karabakh. Questo è il nostro termometro internazionale, sono i dossier più caldi, quelli che stiamo seguendo io e tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano. Sono temi che sono già stati raccontati in vecchie puntate e diventeranno nuovi approfondimenti di Nessun Luogo Lontano. Quest'oggi invece, come vi dicevo, inauguriamo un lunghissimo viaggio che ci porterà in alcune capitali straniere. L'idea qual è? Beh, di osservare la lunga cavalcata verso il 3 novembre che dovrà decretare il nuovo presidente dello Stato più potente al mondo, beh, guardandolo con gli occhi degli altri, con gli occhi degli iraniani, dei coreani del nord, dei russi. Oggi partiamo proprio da Teheran ed è lì che Valeria Bernardi ci porta. As long as I'm president of the United States, Fin tanto che sarò presidente degli Stati Uniti, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. All'Iran non sarà permesso di avere un'arma nucleare. عرض که از در رأس اونها رئیس جمهور جنایتکار آمریکا دونالد ترامپ. Se non ci sono le condizioni per arrestare il presidente Donald Trump per l'uccisione di Soleimani, allora agiremo dopo, quando non sarà più presidente. Non ci sorprende quello che sostiene l'Iran. È il tipo di propaganda che pensavamo avrebbe usato. Our message is very, very simple. Il nostro messaggio è molto semplice. These UN sanctions will continue. The arms embargo. Le sanzioni all'Iran non cesseranno. The US wants to create a self-arrogated right which does not exist. Gli Stati Uniti si arrogano il diritto di dettare legge. Therefore the international community must resist the US outlaw behavior. La comunità deve opporsi and protect the UN's credibility e difendere la credibilità delle Nazioni Unite. E così in 90 secondi Valentina Ternullo, Valeria Bernardi ci hanno portato direttamente al cuore della questione. È vero, da Teheran sia la politica iraniana che la società civile guarda con estremo interesse a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti d'America, ma su tutto evidentemente il ruolo delle sanzioni fortemente volute dagli Stati Uniti. Peraltro è in scadenza una serie di sanzioni volute anche dalle Nazioni Unite, ma il Pentagono ha già pronto una nuova raffica, sta come dire armando nuovamente l'arsenale per tenere sotto pressione Teheran. In questo clima naturalmente è interessante porsi la domanda: ma gli iraniani che presidente auspicano continuano a vedere di buon occhio una svolta democratica, oppure, come inaspettatamente il prossimo ospite ci racconterà, pensate, c'è qualcuno che addirittura in un Iran stritolato dalla morsa statunitense in qualche modo fa un plauso a Trump e addirittura auspica una sua rielezione. Di questo apparente paradosso, ma anche di tante altre cose, ci parla Pejman Abdolmohammadi, professore di storia e politica del Medio Oriente, Università di Trento, autore fra l'altro di un testo fresco di stampa, scritto con Giampiero Cama, Contemporary Domestic and Foreign Policies of Iran, traduco brevemente la politica contemporanea interna e estera dell'Iran. Professor Abdolmohammadi, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, eccoci qui, grazie per l'invito. Allora, io in qualche modo ho fatto spoiling, come si dice, ho anticipato quello che è un grande paradosso, lo possiamo dire, ci siamo sentiti durante la giornata e peraltro una dichiarazione che lei ha rilasciata alla DN Kronos poche ore fa già sottolineava questo aspetto. E il fatto che una parte della società civile iraniana in realtà guarda con favore a Trump. Tra pochissimo ci spiegherà il perché di questo incredibile paradosso. Adesso però le proporrei, professore, di andare direttamente a Teheran e di farlo con la voce di Gambar Naderi, giornalista della TV di Stato Press TV, è il servizio in lingua inglese, ma anche Press TV è di proprietà della IRIB, dell'Islamic Republic of Iran Broadcasting, cioè la compagnia di Stato dell'Iran che è responsabile dei media. Lo ha raggiunto Andrea Macchioni, gli ha chiesto in che modo l'Iran sta guardando alle elezioni statunitensi e se c'è la speranza che la nuova amministrazione, qualunque essa sia, possa in qualche modo allentare le sanzioni. Sentite. Nessuno in Iran ha accolto con favore le nuove sanzioni. Voglio dire, provate a mettervi nei panni del popolo iraniano e del suo governo. Mentre tutti gli altri paesi stanno faticando a contenere il coronavirus, immagina quanto può essere difficile venire sanzionato dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Le sanzioni continueranno a peggiorare il quadro generale in Iran, perché in queste condizioni non siamo semplicemente in grado di contenere il virus e riportare la situazione alla normalità. Avete sentito la voce da Teheran di Gambar Naderi, giornalista della TV di Stato Press TV, torno invece dal professor Pejman Abdolmohammadi, insegna storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento, vanta origini iraniane, chi meglio di lui potrà spiegarci meglio e dare i contorni di questa visione. Lo dicevo, facciamo uno sforzo quest'oggi, ascoltatrici e ascoltatori, togliamoci gli occhiali italiani e occidentali, mettiamo quelli iraniani. Come viene vista e come viene vissuta, professore, questa campagna elettorale che sta assumendo toni molto molto accesi e anche tassi di imprevedibilità che soltanto il 3 novembre potrà eventualmente sconfessare, professore? Eccoci qua, no, in realtà, come giustamente diceva, c'è una interessante spaccatura tra società e Stato, ma comunque l'Iran nel suo complesso sta seguendo con molta attenzione le elezioni americane, la campagna elettorale, anche perché in parte il suo futuro potrà essere influenzato dall'esito di queste elezioni. Da un lato noi abbiamo all'interno della Repubblica Islamica la parte più cosiddetta pragmatista e riformista, che non soltanto tifa, ma proprio spera vivamente che Biden e i democratici vincano, mentre c'è una parte conservatrice, i cosiddetti hardliner della Repubblica Islamica, anche vicini ai Pastaran, che non è che lo dicono in modo pubblico, però non disdegnerebbero anche una riconferma di Trump, così che il sistema delle sanzioni, che sta portando veramente all'estenuamento della società, però allo stesso tempo apre delle oligarchie economiche che sono controllati da questi gruppi piccoli e in qualche modo gli permette di avere una potenza economica e militare a discapito dell'altra parte dello Stato, ripeto, lo Stato, non parliamo della società, che invece è vicina al presidente Rouhani, quindi più pragmatista e riformista. La voce che state ascoltando, il commento di Pejman Abdolmohammadi, che ci sta raccontando di questo Iran a due velocità, o per tenere la metafora degli occhiali, un po' come se avessero due lenti diverse, quello di sinistra e quello di destra, l'ambiente più riformista, la società civile e poi invece gli ultraconservatori iraniani, che col muso duro rispetto all'amministrazione statunitense possono in qualche modo anche portarsi a casa un risultato, perché avere il nemico esterno contro il quale tuonare, la storia ce lo insegna, anche quella contemporanea, ai noi, può essere sempre pagante. Su tutto però c'è la mannaia delle sanzioni. Ieri l'amministrazione Trump ha deciso di colpire 18 nuovi istituti di credito di Teheran. Cosa sono queste nuove sanzioni? Cosa comportano? Ve le raccontiamo nei soliti 90 secondi. Una mossa che paralizza l'intero settore finanziario iraniano, tagliandolo fuori dal sistema internazionale. Le sanzioni decise ieri dall'amministrazione Trump colpiscono 18 istituti di credito di Teheran, le ultime banche superstiti dopo il precedente giro di blocchi, e penalizzano in subordine anche tutte le istituzioni straniere che intratterranno rapporti con il regime degli Ayatollah. Eserciteremo la massima pressione economica finché l'Iran non abbandonerà il suo sostegno ad attività terroristiche e non interromperà il suo programma nucleare, ha dichiarato il segretario del Tesoro americano Steven Mnuchin. La mossa pone gli Stati Uniti in collisione con gli alleati europei che intrattengono affari con le banche iraniane. Ma qual è la storia delle sanzioni all'Iran? Avviate nel 1995 da Bill Clinton, erano state parzialmente alleggerite a partire dal 2001 fino all'intesa sul nucleare iraniano firmata nel 2015, che pareva un segno di normalizzazione. Le pericolose attività iraniane, come il sostegno al gruppo Hezbollah, il ritiro dagli accordi deciso da Trump nel 2018 e ora le nuove sanzioni, sembrano riportare le lancette indietro di anni. Mentre Teheran chiede un prestito da 5 miliardi di dollari al Fondo Monetario Internazionale e stringe ancora di più i rapporti con Cina e Russia, la situazione sul campo si aggrava. L'Iran ha speso il 20% del suo budget annuale per contrastare il Covid-19 e il suo fondo sovrano ha già perso un miliardo di dollari. Ma il regime non sembra intenzionato ad abbandonare l'arricchimento di uranio e le attività militari in tutta la regione. E questo evidentemente è uno dei motivi di forte preoccupazione per non soltanto l'establishment iraniano, ma anche per la popolazione, che da anni sta soffrendo di un isolamento sempre maggiore. Tra pochissimo, sempre con Pejman Abdolmohammadi, cercheremo di capire questo pugno di ferro statunitense verso chi può portare l'Iran, un Iran sempre più isolato che evidentemente cercherà altri appoggi. Indovinate verso chi? Torno però dal professor Abdulmahmadi per capire meglio la fascia degli iraniani più giovani. Parla delle elezioni presidenziali, per esempio, sui social, si esprime, c'è un dibattito anche sui social riguardo al 3 novembre? Assolutamente, soprattutto su Instagram e Twitter, perché Facebook e YouTube, per esempio, sono censurati fortemente dalla Repubblica Islamica, quindi l'accesso è molto difficile. Sì. C'è un interessante dibattito, anche a livello, insomma, soprattutto sui social media, ma non solo, anche sulle TV e anche sulle chat private, che sono molto interessanti. Da una parte abbiamo una parte interessante, ormai potrei dire una maggioranza relativa di questi giovani che, sebbene colpiti anche loro economicamente in modo arduo, poi c'è anche il Covid e le sanzioni di Trump, che però non si dimenticano una questione importantissima che anche voi avete dato spazio a novembre scorso, che fu la repressione di massa del regime contro i giovani nelle scuole, diciamo nelle piazze. Sì. Circa 1500 morti secondo la Reuters, e soprattutto il lockdown che è già avvenuto prima del Covid, cioè per 12 giorni 80 milioni di iraniani non hanno avuto accesso a internet perché la Repubblica Islamica ha fatto un shutdown per non fare. E questo ha fatto sì che in realtà, paradossalmente come lei diceva, una parte di questi ragazzi, ma anche della società anche più adulta, sebbene costretta, diciamo, a questa sanzione economica, ma vede ancora più temibile un regime che lo sta vivendo. Quindi quasi quasi dice, va bene, un Trump che è bullo e forte e ha messo poi oggettivamente veramente l'angolo islamiche, allora speriamo di andare fine. E poi chiaramente c'è un'altra parte più riformista o pro regime che invece tifa per me. Questo è interessantissimo. È molto interessante, così ha svelato il paradosso il nostro ospite, il professor Pejman Abdulmahmadi, lo ricordo, insegna storia politica del Medio Oriente, Università di Trento. Il suo ultimo libro, scritto con Giampiero Cama, va a indagare quelle che sono le politiche, sia di politica interna che di politica estera dell'Iran contemporaneo. Adesso, tra pochissimo, le chiederò un'altra cosa, perché se le relazioni con gli Stati Uniti si deteriorano, è evidente che Teheran va a cercare altri partner. In alcuni casi possono essere partner quasi fisiologici, naturali, anche per prossimità geografica, per una certa storia. In altri casi invece sono partner un po' più lontani, che forse dovrebbero preoccupare l'Occidente. Per darvi la misura, anzi, facciamo un quiz con gli ascoltatori, va? Se io dico S-400, vediamo il primo che mi risponde al 349-238-6666, facciamo i test di geopolitica. Così intanto ne facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse in quest'ultima giornata della settimana e poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Borse in diretta. Resta positiva ma più debole Wall Street, la Dow Jones in questo momento guadagna lo 0,05, la Standard & Poor's 500 in progresso dello 0,38, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,21. Quasi tutte positive, ma anch'esse più deboli le piazze europee, il CAC 40 di Parigi in rialzo dello 0,50, Londra guadagna lo 0,62, mentre Mira in territorio negativo il DAX di Francoforte che cede lo 0,17. E così fa anche Piazza Affari con il FTSE MIB che ora cede lo 0,14 e il FTSE All Share che cede lo 0,02. Sul listino milanese le vendite sono concentrate su Pirelli, ma anche su TIM e Ferrari, che sconta il timore per un raddoppio in Francia della tassa sulle auto di extra lusso. Infine i cambi euro su dollaro 1,1804. È tutto. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano si apre con una mesta considerazione da parte mia. Pensavo che il quiz fosse estremamente complesso, avete risposto in tantissimi e quasi tutti, a parte un paio di divertissement notevoli, c'è qualcuno che con S400 fa riferimento a una nota casa automobilistica, qualcuno dice il primo computer con cui ho lavorato, ma la maggior parte di voi, tanti, scrivono sistema antimissile russo S400. Perché parliamo di questo? E torno dal professor Abdul Mahmadi, perché secondo un recente articolo uscito su Foreign Policy, la continua stretta delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite, ma soprattutto da parte degli Stati Uniti, sta spingendo sempre di più Teheran verso Mosca, e si vocifera di un nuovo invio di queste di questi sistemi. Non sono solo razzi, ma sono veri e propri sistemi missilistici. Ne parlammo tantissimo in occasione delle vendite, sempre di Mosca, alla Turchia, con quell'incredibile paradosso per cui un paese interno alla NATO, membro della NATO, la Turchia, acquistava sistemi missilistici sostanzialmente anti-NATO. Professore, è d'accordo? È una possibilità, un'occasione per Mosca di rinsaldare i legami con Teheran, ma con quali vantaggi per Teheran e per Mosca? Assolutamente sì, il fatto che a un certo punto con l'amministrazione Trump e la dottrina di Pompeo in qualche modo la Repubblica Islamica si è messa all'angolo fa sì che le sue alleanze con la Russia e soprattutto con la Cina aumentano e quindi con la Russia dal punto di vista militare, come lei sottolinea, ma sì. Con la Cina lei sa che c'è un contratto di 25 anni che stanno per firmare, dove l'Iran più o meno diventa una specie, proprio non colonia, ma semicolonia della Cina. Questo chiaramente va a discapito degli Stati Uniti e di quello che sta succedendo. E in questa partita bisogna vedere se la Russia, che in questo momento è uno dei tutori internazionali della Repubblica Islamica dell'Iran, rimarrà in silenzio, vedendo una Cina che diventa sempre più grande e che in qualche modo sta arrivando sul Golfo Persico. Certo. Quindi potrebbe essere che sorga anche un conflitto paradossale tra Russia e Cina che possa anche avvantaggiare invece gli Stati Uniti. Quindi la partita è molto interessante. Assolutamente. E come abbiamo ribadito a inizio trasmissione, abbiamo iniziato questo incredibile viaggio di relazioni internazionali partendo da cosa? Beh, dal grandissimo appuntamento del 3 novembre. Si vota negli Stati Uniti d'America, la più grande potenza al mondo, l'elezione del presidente va a sparigliare la carta quasi in tutti i quadranti, benché sia l'amministrazione democratica, meglio, sia l'amministrazione repubblicana che quella democratica probabilmente terranno quella linea già intrapresa da Obama, che è sostanzialmente di disimpegno dal mondo, creando vuoti, evidentemente. Questi vuoti saranno riempiti dagli attori più aggressivi, più autorevoli o con più coraggio nell'andare a riempire appunto quei vuoti. Io ringrazio tantissimo il professor Pejman Abdul Mohammadi, lo ricordo, Università di Trento, ci ha accompagnato in questo primo viaggio. Professore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie, buona giornata. Torniamo allora a Teheran, lo facciamo con la voce di Gabbar Naderi, giornalista della TV di Stato Press TV. Come vi dicevo, l'ho raggiunto Andrea Macchioni, al quale Naderi ha chiesto qual è la presa di posizione ufficiale dell'Iran, di Teheran, rispetto alle elezioni presidenziali statunitensi, se c'è una posizione ufficiale a tutti gli effetti. Sentite. Il governo iraniano preferisce ovviamente Biden come presidente, ma cerchiamo per piacere di essere realisti. Nessuno sa come questa corsa presidenziale andrà a finire, ma di una sola cosa possiamo invece essere certi. Non importa chi vincerà le prossime elezioni, l'ostilità tra Iran e Stati Uniti continuerà ad alti livelli. Questo perché entrambi i paesi rifiutano di sedersi al tavolo dei negoziati e non mostrano nessuna intenzione di risolvere la controversia attraverso il dialogo. Questa situazione va avanti ormai da 40 anni e quindi non credo che la presidenza democratica cambierà radicalmente la condotta degli Stati Uniti. Sì, certo, Biden ha dichiarato di voler tornare all'accordo sul nucleare, ha detto anche che revocherà il regime di sanzioni contro l'Iran, ma in realtà si tratta solo di retorica da campagna elettorale. Non abbiamo nessuna sicurezza che nel caso Biden vinca le elezioni abbia davvero intenzione di mantenere le promesse. Questo è il problema. In Iran c'è un serio problema di inflazione, di perdita di valore della moneta nazionale. Inoltre, la società civile internazionale si rifiuta di normalizzare le relazioni commerciali con l'Iran perché teme che la prossima amministrazione manterrà le sanzioni commerciali. Quindi non importa chi vincerà le prossime elezioni. Il futuro è completamente incerto. The future is not certain. Questa è la voce di Gambar Naderi, giornalista della TV di Stato Press TV, raggiunto a Teheran dal nostro Andrea Macchioni. Intanto rispondo a un po' di ascoltatori che scrivono con decine di punti esclamativi di domanda: Obama disimpegno dal mondo. Beh, andatevi a vedere i numeri del disimpegno dal teatro afghano, per esempio, che è stato quello più impegnativo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi per gli Stati Uniti. È stato Obama che ha iniziato a ritirare le truppe, peraltro con un incauto annuncio, e lo dicemmo qui da questi microfoni quando eravamo in versione estiva, per così dire. E i disimpegni militari non si annunciano mai troppo tempo prima, perché poi dai modo ai talebani evidentemente di riattrezzarsi, questo per dovere di cronaca. Stiamo a Teheran, stiamo con la voce di Gambar Naderi, perché ci dà uno sguardo dall'interno della Repubblica Islamica che è sempre interessante. Ve lo ripeto, ascoltatrici e ascoltatori, quest'oggi il tentativo è di toglierci un po' il nostro punto di vista, provare a abbracciare quello per noi evidentemente distante anche culturalmente, quello persiano. Per questo siamo andati a Teheran. Torniamo su quella che è l'opinione pubblica iraniana rispetto a queste elezioni, e soprattutto se c'è uno iato tra quello che pensa l'establishment iraniano e quello che pensa, qualcuno direbbe, il cittadino comune, l'uomo della strada di Teheran. Sentite. Il problema è che in Iran la cosiddetta ala intransigente è molto influente all'interno del governo, e quindi l'opinione pubblica è stata spinta a credere che anche nell'ipotetico caso che la prossima amministrazione firmasse un nuovo accordo sul nucleare, gli Stati Uniti non manterranno mai le loro promesse. Ormai sappiamo che Washington non ha particolarmente a cuore il diritto internazionale. Di conseguenza, l'idea diffusa è che gli Stati Uniti non rispetteranno nessun tipo di risoluzione o accordo con l'Iran. Quindi, indipendentemente dal risultato delle elezioni, molti pensano che non ci si possa fidare degli Stati Uniti, dato che già una volta si sono ritirati dall'accordo sul nucleare che era stato ratificato e approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non c'è quindi nessuna garanzia che la prossima volta le cose andranno diversamente. Gambar Naderi, giornalista della TV di Stato Press TV da Teheran, ribadisce e illumina un aspetto molto importante nelle relazioni internazionali, che è la fiducia, che è il progresso. Il ritiro dall'accordo sul nucleare ha in qualche modo scottato sia la politica iraniana che anche parte dell'opinione pubblica, e quindi anche un cambio di volta dell'amministrazione, quindi in senso democratico, con una possibile vittoria di Biden, non entusiasma, come avete sentito il giornalista di Press TV, che in qualche modo si è tolto la panna la giacca del cronista per abbracciare quello più dell'analista e dell'opinionista. È però assolutamente interessante. 349-238-6666, i vostri messaggi, i vostri commenti. Stefano da Modena si dice sempre, parlando dell'America, che sia la più grande potenza del mondo, ma siamo ancora sicuri che sia così? No, in effetti non lo siamo, gentile Stefano. Il mondo è passato da una situazione di bipolarismo estremo a un multipolarismo, senza andare a citare grandi teorie o tesi di geopolitica, No One's War di Kapchan. C'è stata una frammentazione, i due schieramenti della Guerra Fredda ormai non esistono più, tanti attori si stanno affacciando. Credo che la visione di Kapchan, quando dice il mondo sostanzialmente non appartiene a nessuno, in qualche modo è di tutti, ci spiega anche per esempio la grande attività turca, e ne sta pagando lo scotto l'Unione Europea, ma anche l'Italia. Sto pensando in questo momento al dossier evidentemente del Mediterraneo orientale. In questo momento il mio pensiero però va anche a chi sta guidando e a chi ci sta ascoltando. Andiamo a sentire se c'è traffico o se è scorrevole. Strade in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento sull'Autostrada del Sole nel tratto emiliano tra Terri di Canossa e l'innesto con la A15 Parma La Spezia. A causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolte due autovetture ed un camion che si è ribaltato sul New Jersey centrale, si è formata una coda pari al momento a 6 km in direzione Milano, dove il traffico scorre su una corsia, e pari a ben 10 km in direzione Bologna, dove si viaggia su due corsie. Code per incidente anche sul ramo Casalecchio dell'autostrada Adriatica, nel tratto tra Bologna-Casalecchio e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine in Lombardia sulla Milano-Lecco, code per incidente tra il tunnel di Monza e Desio Nord in direzione Lecco. Queste al momento le notizie più importanti, ci risentiamo quindi alle 17.45. Nessun luogo è lontano. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua a cercare di osservare le elezioni statunitensi e la lunga campagna elettorale attraverso gli occhi iraniani, attraverso le lenti iraniane, con le voci di giornalisti, di commentatori, di analisti e naturalmente anche le vostre, che arrivano al 349-238-6666, un ascoltatore fra i tanti peraltro che avevano azzeccato il nostro piccolo quiz S-400. Non accetto molto che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare sia la causa scatenante delle tensioni, perché era ritenuta un fallimento di Obama come una sottomissione alle idee intransigenti iraniane riguardo il nucleare, quindi era l'Iran che già da tempo minava questo accordo. Questa è l'opinione di uno dei nostri ascoltatori. Qualcun altro stigmatizza il fatto che l'Iran diano lezioni di diritto internazionale. Gianni da Verona la bolla come la barzelletta del giorno. 349-238-6666 per voi. Invece noi proviamo a aprire l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, proprio focalizzandoci sulla politica estera iraniana, ma anche quella statunitense. Lo facciamo con Anisee Bassiri Tabrizi del RUSI, il Royal United Service, non mi ricordo più l'acronimo, devo confessare. Dottoressa Tabrizi, buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano. Ciao confesso. Amici di Istituto, buonasera e grazie per avermi invitata. E grazie a lei per, come dire, colmare la mia lacuna, di cui naturalmente chiedo scusa a lei in primis e naturalmente ai nostri ascoltatori. Tabrizi, la politica estera statunitense e quella iraniana sono assolutamente legate, questo accade da decenni. Poniamo l'ipotesi che Trump vinca, l'amministrazione continui a essere repubblicana e continui quel forte disimpegno che Trump ha annunciato, dicevamo proprio ieri se non erro, entro Natale, anzi lo ha twittato se non detto alle agenzie, entro Natale massimo 2500 militari americani rimarranno in Afghanistan, quindi un ritiro notevole, vuole fare un bel regalo alle sue truppe. In generale c'è un disimpegno dal Medio Oriente allargato. Ecco, questo che cosa comporta per la politica estera iraniana? Maggiori opportunità anche attraverso gli attori adesso collegati? Allora, sicuramente è una domanda importantissima. Secondo me comunque è difficile generalizzare, nel senso che in qualsiasi teatro di confronto ci sarà una reazione diversa da parte iraniana. Chiaramente la politica iraniana è volta a spingere gli americani fuori dalla regione, questo lo sappiamo bene, che sia in Afghanistan, che sia in Iraq, che sia nel Golfo Persico, lo sappiamo che questo è lo scopo. Però, per esempio, in Afghanistan la situazione è leggermente diversa dall'Iraq, per esempio. Certo. Loro sono molto preoccupati della stabilità del paese e in realtà molte frange governative non vogliono che gli americani se ne vadano troppo in fretta, perché hanno paura di una destabilizzazione del paese o anche di un controllo dei talebani, delle istituzioni afghane. Sì. Quindi è diverso per esempio da quanto vediamo in Iraq, dove invece c'è una spinta molto attiva nei confronti di una fuoriuscita delle truppe americane dal territorio iracheno. Sì. Quindi non è che si può parlare, diciamo, della posizione iraniana in generale a favore del disimpegno americano nel Medio Oriente. Direi che quella è sicuramente la politica di lungo termine, però a seconda dei teatri poi ci sarà una preferenza o meno per un disimpegno immediato o meno. Certo, una pietra miliare, Anisee Bassiri Tabrizi, di questa puntata è proprio il capitolo sanzioni, perché in qualche modo è attorno a questo capitolo che ruotano tante delle relazioni Stati Uniti Iran. L'Europa si è mostrata molto molto pronta, o almeno più pronta degli Stati Uniti, al dialogo con l'Iran, molto spesso, come dire, a trazione francese, no? Ricorderemo tutti anche quegli inviti fatti da Emmanuel Macron al ministro degli esteri Zarif iraniano. Quindi l'idea che l'Unione Europea in qualche modo assuma un ruolo per un dialogo privilegiato è qualcosa che è sullo sfondo. Complice un possibile cambio dell'amministrazione statunitense, potrebbe essere che l'Unione Europea vada a giocare un ruolo più importante e in qualche modo faccia uscire l'Iran da questo isolamento che, lo ricordiamo, al di là delle valutazioni politiche, è estremamente nocivo e dannoso per la popolazione che ne sta soffrendo da mesi, anzi direi da anni. Sì, allora, la situazione anche sul piano, diciamo, dell'asse Europa-Iran e dell'asse transatlantico è alquanto complessa. Direi che in generale, proprio per la politica di disimpegno americana, c'è una sensazione anche da parte europea che anche qualora si abbia un'amministrazione Biden, comunque si vedrebbe un disimpegno da parte americana nel Medio Oriente. Sì. Secondo me, questa è la mia opinione e mi sento di condividerla, la differenza che noi vedremmo in un'amministrazione Biden rispetto all'amministrazione Trump sarebbe una maggiore collaborazione transatlantica su tanti dossier, quello iraniano in primis, ma anche abbiamo la Russia, abbiamo la NATO, ci sono tante questioni che negli ultimi 4 anni hanno creato tensioni transatlantiche. Con un'amministrazione Biden magari si ha comunque questo disimpegno nel Medio Oriente, però secondo me ci sarebbe comunque una maggiore collaborazione. Questo che significa nel piano specifico dell'Iran? Sì. Significa che comunque non ci sarebbe una risoluzione immediata della situazione, non si tratta di arrivare dal giorno alla notte e di risolvere tutto quello che è successo soprattutto negli ultimi 3 anni per quanto riguarda soprattutto il piano delle sanzioni e la questione dell'accordo nucleare. Però si tratterebbe di avere una controparte americana sicuramente molto più interessata delle preoccupazioni di sicurezza europee e chiaramente anche più in grado di facilitare un ruolo privilegiato da parte degli europei, perché questo è chiaro che loro lo vogliono. Diciamo, il dialogo con l'Iran non fa solo parte di questo ultimo periodo storico, certo, ma ha caratterizzato proprio una divisione europea rispetto agli americani dagli anni 90, da quando la politica di dialogo è stata iniziata con la Repubblica Islamica, e questa continuerà, questa politica. L'unica cosa è che da sola non è sufficiente a portare purtroppo risultati, perché abbiamo visto appunto per soprattutto per la questione delle sanzioni, ma in generale per l'impatto della politica estera americana, la questione è che gli europei non sono riusciti, nonostante la loro il loro impegno politico, il loro investimento, a portare avanti la loro ambizione per quanto riguarda l'Iran, soprattutto negli ultimi 3 anni. Questo, certo, potrebbe cambiare con un'amministrazione Biden, sicuramente. Certo, certo. Nelle parole di Anisee Bassiri Tabrizi, lo ricordo, è ricercatrice al RUSI, Royal United Services Institute, ma anche ricercatrice anche al World Studies del King's College di Londra. Ci siamo messi ancora una volta gli occhiali iraniani per capire meglio con quale interesse, ma a volte anche apprensione, sia l'establishment iraniano ma anche la società civile stia guardando al 3 novembre come una data molto molto importante. Vi abbiamo raccontato dei 100 milioni di cittadini statunitensi incollati ai teleschermi per i dibattiti televisivi. Ecco, sappiate che ci sono altri milioni di cittadini nel mondo che guardano con la stessa attenzione, perché è inutile dirlo, gli Stati Uniti non sono più lo sceriffo del mondo, ma comunque ogni loro mossa in qualche modo va a impattare, le relazioni sono complesse, questa stessa complessità ci è stata restituita da Anisee Bassiri Tabrizi, che ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Molti ascoltatori tornano a quella che è stata la differenza tra la politica estera di Obama e di Donald Trump. Un ascoltatore scrive: hanno dato il Nobel per la pace a Obama, ha fatto solo danni. Trump, a Trump cosa devono fare? Lui che ha fatto molto più di tutti i suoi predecessori è solo ipocrisia. Così scrive un ascoltatore. Via sms al 349-238-6666. Qualcuno tira in ballo il nucleare israeliano, immagino, una serie di emoticon che esprimono dubbi e sconforto, credo che faccia riferimento un po' al doppiopesismo di alcuni analisti internazionali, ma a proposito di doppiopesismo c'è sempre quello tra Iran e Arabia Saudita, no? Per cui due regimi che in alcuni casi piegano in maniera incredibile i diritti individuali, ma l'Iran viene spesso demonizzato, l'Arabia Saudita invece gode di un trattamento certamente diverso molto spesso sui media. Mancano esattamente 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi. Beh, è il tempo giusto per farsi accompagnare alla porta. You're fired. You're fired. You're fired. E darvi appuntamento naturalmente a domani alle 10 col meglio di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento invece è lunedì ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.